Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon fine serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. La mail unabusoalgiorno@radio24.it. Il mio blog si chiama Guardie o Ladri e lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Ahimè, parlo sempre di temi legati alla legalità tradita, alla criminalità organizzata che mette ormai le mani dappertutto e a tutti gli abusi appunto che si compiono purtroppo quotidianamente in Italia. Allora, leggo questo titolo che traggo dal Gazzettino di Venezia. Ecco i premi dei dirigenti, sindacalista sospeso, Rovigo bufera in comune, il capo del personale, dati diffusi senza autorizzazione. Il Partito delle Libertà, quegli atti sono pubblici. Allora, che cosa succede? Succede che mentre in Italia c'è un ministro per la funzione pubblica, Renato Brunetta, che mette in linea tutti i redditi percepiti dagli amministratori delle aziende pubbliche locali, ex municipalizzate, i parlamentari rendono noti i propri guadagni. Insomma, si cerca la massima trasparenza della cosa pubblica, che altro non siamo che noi, che paghiamo le tasse per avere in cambio dei servizi. Accade che il comune di Rovigo, stiamo parlando quindi del nord-est del Veneto, non stiamo parlando né di Gioia Tauro né di, Enna, non stiamo parlando di Salerno né di Bari, quindi questo accade nel nord. Come Rovigo dice no, attenzione signori miei, i premi dei dirigenti non possono essere conosciuti, è un segreto non di Stato ma di comune. Quel sindacalista che ha reso noti quei dati, che ha fatto questa richiesta, va sospeso per un giorno. Sindacalista si chiama Fabio Raule, delle rappresentanze di base. Buongiorno Raule. Buongiorno a voi. Contento di essere stato sospeso? Beh, diciamo, io sarei contento, sarei stato felice di non essere stato sospeso, però ho ritenuto di scontare questa pena e di rendere pubblico questo fatto increscioso che mi è accaduto, insomma. Perché ecco, mi avevano proposto l'alternativa di 4 ore di multa, ma ho deciso di subire integralmente la pena per poter dare rilevanza esterna alle ingiustizie che si commettono all'interno del nostro ente. Ecco, allora, noi ovviamente, lo sapete come lavora questa redazione, abbiamo cercato il Comune di Rovigo, perché dovevamo avere una voce che potesse contrapporsi al sindacalista Fabio Raule, che con questo volantino aveva resi noti i bonus di 10 manager e del segretario generale. Parliamo complessivamente di circa 120.000 euro. Sentite la risposta del comune di Rovigo. Gentile redazione, ho trasferito la vostra richiesta al dirigente Andrea Pirani, dirigente del personale del comune di Rovigo, il quale mi ha detto di comunicarvi cortesemente che non interverrà al vostro approfondimento radiofonico, in quanto non ritiene sia sede opportuna per affrontare la questione in oggetto, perché non è una questione da trattare al di fuori di quello che è il regolamento disciplinare interno. Si tratta di un procedimento amministrativo interno, ineccepibile sotto il profilo giuridico, al quale il dipendente stesso non ha fatto alcun tipo di ricorso. Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e cordialmente saluto. Paola Gasperotto, ufficio stampa, Comune di Rovigo. Allora, caro Raule, abbiamo sentito la risposta del Comune di Rovigo, il quale dice: ma il dipendente non ha fatto nemmeno ricorso, quindi ha ammesso le sue colpe. È così, Raule? Ma no, non è così. Il legale del nostro sindacato sta predisponendo il ricorso. Comunque, quello che ci interessava era far notare il modo di operare di questa amministrazione, voglio dire, che continua a portare avanti una politica di due pesi e due misure. Da una parte ci sono i dirigenti, la casta dirigenziale, e dall'altra ci sono i lavoratori, cioè voi dovete sapere che la contrattazione della dirigenza avviene fra i dirigenti stessi, quindi c'è una sorta di teatrino dove ci sono alcuni dirigenti che fanno i datori di lavoro, altri dirigenti che fanno i sindacalisti, e si mettono d'accordo su come gestire le loro risorse. Tutto questo avviene dopo che comunque hanno cercato come unica finalità di contenere al massimo le risorse destinate ai lavoratori, non pensando che comunque investendo un po' di soldi per corrispondere un premio ai lavoratori, anche perché comunque se si va verso una politica motivazionale bisogna pure mettere qualcosa per motivare i lavoratori, potrebbe avere un ritorno per, in termini di produttività e quindi di servizi per i cittadini. Assolutamente, io sono d'accordo con lei, di queste cose ci sarebbe veramente piaciuto molto parlare con l'amministrazione comunale di Rovigo, anche perché dalla lettura di questa lettera, che probabilmente sarà stata pensata, ripensata, vagliata, corretta, rimandata, ritornata, protocollata, vidimata e chissà quante altri passaggi della burocrazia, quello che io noto è una mancanza, un'assenza di dialettica. Perché quando si dice, mi corregga Raul quando sbaglio, sì, che la trasmissione radiofonica, quindi voglio dire il confronto con la coscienza civile che anima un giornalista e con la controparte che è lei, non è la sede opportuna per trattare di questi argomenti, perché è una questione interna al comune. Beh, io francamente questo passaggio lo trovo da brividi, non so lei che cosa ne pensa, Raul. Ma difatti io sono per rendere pubbliche le cose che si fanno, voglio dire, se l'ente agisce correttamente non deve avere nessun timore a rendere evidenti le retribuzioni che corrispondono ai propri manager. Difatti io sono rimasto basito, perché da una parte c'è una politica dove si mettono le retribuzioni nei siti della funzione pubblica con nomi e cognomi, mentre qui all'interno del comune si vuole censurare quanto prende la casta, o meglio ancora quanto costa la casta alla cittadinanza. Ecco. Allora, il mio volantino aveva la finalità di mettere in evidenza come un'amministrazione di centrosinistra in quel momento continuasse a premiare i dirigenti che in 2 anni si sono incrementati il premio di risultato del 51%, e dall'altra parte stesse disattendendo l'impegno preso coi lavoratori. In tutta questa dinamica c'è l'avallo del direttore generale, voglio dire, generale che... Ecco, io vorrei... Per lo stesso volantino io avevo precisato che costa la cittadinanza 200.000 euro, e visto che comunque c'è una politica di contenimento della spesa al limite dell'1%, che se alcune scelte di taglio si dovevano fare... si doveva pensare a ridurre la casta, la spesa della casta e non tagliare sui lavoratori. Ecco, io vorrei chiederle questo qui. Chi segue questa trasmissione sa che non ho peli sulla lingua, non mi interessa né del centrodestra, né del centrosinistra, né del centro. In questo non avere peli sulla lingua e dire quello che penso sempre, le dico sinceramente che io non ho generalmente, attenzione, un ottimo giudizio dei sindacalisti e dei sindacati, non perché non siano il sale o uno degli ingredienti fondamentali della democrazia, ma perché, ahimè, come è successo per la casta politica, c'è stata anche una casta di sindacalisti che alla fine è diventato un substrato di potere. Ed allora le chiedo, ma che tipo di reazione ha avuto tra i suoi colleghi sindacalisti delle rappresentanze di base e tra gli altri sindacalisti dei sindacati maggiori o minori che sono all'interno del comune di Rovigo? Le voglio dire questo, senz'altro io ho avuto la solidarietà del sindacato di base e una grossa solidarietà da parte dei lavoratori. No, non voglio qui parlare degli altri sindacati confederali, perché comunque questo poi, cioè l'attenzione poi si sposta su questo e a me non interessa. Diciamo che sono stati latitanti, uso questo termine, perché comunque nel nostro contesto hanno il timore di una crescita del sindacato di base che sta ottenendo grosso consenso, anche perché ha il coraggio di denunciare delle situazioni che non vanno, sia che l'amministrazione sia gestita al centrodestra che sia gestita al centrosinistra, sì, perché noi abbiamo avuto prima un'amministrazione di centrodestra dove magari c'era anche qualche sindacato confederale più attento a certe problematiche, ora con l'amministrazione di centrosinistra magari qualche sindacato è più distratto, diciamo così. Comunque, cioè, quello che ci interessa far notare è che noi come RDB e sindacato di base cerchiamo di coinvolgere direttamente i lavoratori e portiamo avanti una politica di denuncia di quelle che sono le ingiustizie organizzative all'interno della nostra organizzazione. Bene, bene Raul, io la interrompo perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Grazie per il suo intervento, buon lavoro. Le nostre porte, anzi meglio dire i nostri microfoni, sono sempre aperti a disposizione anche del Comune di Rovigo qualora ci volesse ripensare. Grazie in regia a Fabio Cantadori e in studio a Laura Faggin. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.